I giornali hanno riferito con una certa sfumatura di affettuosa ironia del sogno perduto di Silvio Berlusconi, come lo ha raccontato in un discorso alla trasmissione del Fido Bruno Vespa. E in quella sede abbiamo appreso che anni fa all'attuale leader dell'opposizione sarebbe tanto piaciuto avere un'isola tutta per sé. E anzi, ne aveva già addocchiato una, Moreau, nelle Grenadine Meridionali, che sono poi un gruppo dei Caraibi, e le trattative per l'acquisto erano già a buon punto quando i comunisti fecero la rivoluzione a Grenada, che è lo stato di cui fanno parte le Grenadine, e non se ne fece più nulla. Una storia semplice e toccante che ha permesso a Vespa di commentare l'Unione, ecco perché c'era tanto con i comunisti, servendo al cavaliere su un piatto d'argento la possibilità di ribattere che no, lui è contro i seguaci di quella parte politica che sono brutti, cattivi, mangiano i bambini in fascia e fanno una quantità di altre cose nefande. Questo squarcio di vita vissuta, originalità dei giudizi politici a parte, ha offerto a quasi tutti i commendatori l'occasione di una presa in giro tutto sommato benevola. Se è difficile fraternizzare davvero con chi si duole per il mancato acquisto di un'isola, resta il fatto che scoprire che anche il cavaliere ha avuto le sue brave delusioni rende meglio disposti nei suoi confronti. Lo fa sembrare più umano. Tutti a una certa fase del nostro sviluppo abbiamo sognato di avere la nostra isola, l'isola di cui poter essere, a seconda dei casi, Robinson, il Sandokan o il Capitano Nemo. Chissà, se Berlusconi avesse davvero avuto Moreau per giocarci, forse in seguito non avrebbe sentito il bisogno di diventare quello che è diventato. E poi si sa che di tutte le isole quella non comperata, se ci è permesso parafrasare Gozzano e Guccini, resta sempre la più bella. Quello però che non ha fatto proprio nessuno è stato controllare i fatti. E perché non sarebbe stato necessario uno sforzo particolare di ricerca per scoprire che i comunisti, e qualsiasi significato si voglia dare all'appellativo, la rivoluzione a Grenada non l'hanno fatta mai. In quell'isola, che è la più meridionale del Mar delle Antille ed è un tipico paradiso tropicale di quelli in cui a vivere come in paradiso sono i turisti, perché i locali, che dipendono esclusivamente dalla monocultura della noce moscata, se la passano piuttosto male. In quell'isola dunque un colpo di Stato effettivamente c'è stato, ma non lo hanno fatto le sinistre. Quelle anzi erano andate al potere nel più pacifico dei modi e in seguito a un normalissimo avvicendamento parlamentare che aveva portato al governo nel 79 il movimento Iniziativa Unita per il Benessere, l'Educazione e la Liberazione di Maurice Bichot. Il nuovo regime aveva impostato un programma di riforme sociali e aveva persino allacciato i rapporti diplomatici con Cuba, ma da questo a fare la rivoluzione naturalmente ce ne corre. Tanto è vero che il piccolo Stato aveva continuato a far parte del Commonwealth e a riconoscere come legittimo sovrano quella pericolosa bolscevica della regina Elisabetta. A rivoluzionare la situazione, con grande irritazione della regina in questione, furono, manco a dirlo, gli americani. Nel senso del governo degli Stati Uniti, che 4 anni dopo mandavano un corpo armato, occuparono militarmente la capitale, abbatterono il governo legittimo e ne imposero uno di loro gradimento. A questo punto, suppongo che se Berlusconi fosse stato ancora interessato alla sua isola, probabilmente gliene avrebbero offerto 2 al prezzo di una, ma non si fece più avanti e avrà avuto i suoi motivi. Beh, direte voi, sì, questo non sarà il modo di raccontare la storia, ma trattandosi di Berlusconi non c'è da stupirsene. Che l'individuo consideri un'insopportabile prevaricazione qualsiasi avvicinamento della sinistra al governo e veda come benefica e legittima qualsiasi azione volta ad allontanarla è fin troppo noto. Il guaio è che non è neanche un'idea solo sua. È un punto di vista largamente diffuso che sta alla base dei vari patti atlantici e delle varie gladio disseminate del libero occidente che hanno portato, come si sa, ad interventi anche un po' più clamorosi che quello a Grenada, non so, quello in Grecia nel 67, in Cile nel 73. La democrazia, per quanti seguono questa linea di pensiero, vale soltanto finché sono fatti salvi i loro personali interessi, e se si impedisce che un onesto imprenditore abbia la sua brava isola, dove si va a finire? Dove? Quindi niente di cui stupirsi, e infatti non se n'è stupito nessuno. Ma santi Dio, che proprio nessuno, a sinistra come a destra, abbia sentito il bisogno di precisare i fatti, a me continua a fare un po' impressione, e la remissività storica deve essere uno degli effetti collaterali del pensiero unico.